Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, oppure se preferite robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Ieri l'associazione dei magistrati della Corte dei Conti si è incontrata con Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, perché il governo, come scriveva ieri la stampa.it, sta preparando un tiro mancino alla Corte dei Conti, o meglio, più di un tiro mancino. E tirare appunto fare uno scherzo alla Corte dei Conti, quindi giudici contabili, obiettivamente è un tipo di abuso, io credo, che si farebbe all'Italia tutta, perché il compito della magistratura contabile è andare a spulciare tra i conti gli sprechi e le inefficienze delle pubbliche amministrazioni. Ed allora noi, per parlare di questo progetto che ridurrebbe il ruolo o comunque lo metterebbe in discussione dei giudici contabili, abbiamo il piacere di parlare con un ospite che è stato già altre volte con noi in trasmissione, anche perché è un esperto del Sole 24 Ore, Tommaso Miele, consigliere della Corte dei Conti e vicepresidente dell'Associazione Magistrati appunto della Corte dei Conti. Buongiorno Miele. Buongiorno, dottor Galullo. Allora, partiamo dalla cosa che potrebbe sembrare meno interessante per il grande pubblico, vale a dire l'idea del governo di far entrare più politici all'interno, diciamo, del consiglio di presidenza della Corte dei Conti, o comunque aumentare il ruolo della politica e diminuire il ruolo e il potere della magistratura contabile. Come starebbero le cose? Usiamo il condizionale perché le trattative sono in corso, appunto. Si tratta di un emendamento presentato al disegno di legge cosiddetto Brunetta, e quello sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, un emendamento che riguarda specificamente la Corte dei Conti, in particolare, fra le altre cose, anche quello cui lei accennava, cioè la composizione, una nuova composizione dell'organo di autogoverno della magistratura contabile, cioè quello che deve garantire l'autonomia e l'indipendenza appunto dei magistrati contabili. E quindi uno si domanda: come può essere garantita questa indipendenza se aumenta il ruolo della politica? Ma oddio, ecco, proprio questo è il punto, che aumentando il ruolo della politica, cioè diminuendo nell'organo di autogoverno i componenti togati, sicuramente, ecco, si va a creare un vulnus all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Ecco, le chiedo Miele, non è che poi magari dietro c'è la voglia di arrivare poi anche all'Associazione Nazionale dei Magistrati, no? Ma più che all'Associazione Nazionale dei Magistrati, ecco, forse questo è il primo passo verso, diciamo, anche l'altro obiettivo, che è quello, che è l'organo di autogoverno della magistratura. Quindi il CSM. Ordinari e il Consiglio Superiore della Magistratura. E quindi il CSM, certo. Quindi il problema è molto... Molto sentito. No, ma infatti... molto sentito, perché riguarda l'autonomia e l'indipendenza delle magistrature in generale. Assolutamente. Noi ovviamente cercheremo anche la voce di Carlo Vizzini, quindi dico ai nostri radioascoltatori, se continuate a seguirci, perché cercheremo di sentire anche la sua voce. Allora, passiamo ad un'altra cosa che in questo pacchetto è allo studio, vale a dire, si dice: rendiamo la burocrazia più snella, non facciamo in modo che si continui ad intasare le aule dei tribunali, siano essi dei tribunali ordinari, siano essi della Corte dei Conti, eccetera eccetera. E poi spunta dal niente il fatto che voi prendete una decisione, no? Nei confronti degli sforamenti di bilancio, delle inefficienze, delle nefandezze nella pubblica amministrazione, il governo sta pensando di dire: beh, vabbè, però nei confronti di questi rilievi si può fare appello. Appello a chi? Ancora ai magistrati contabili. Io francamente non riesco a capirla questa cosa, Miele, me la spiega? Forse sono ritardato io, no? Sono un po' scemotto io. Questo è estremamente pericoloso, perché viene introdotta una inedita tipologia di controllo attivabile anche dal governo, cioè dall'organo che è controllato dalla Corte dei Conti, e che, a differenza del controllo collaborativo che è già in vigore, genererebbe misure interdittive attraverso modalità adottate da nessuna delle istituzioni superiori di controllo a livello internazionale. È prevista, in altre parole, una sorta di appello avverso le deliberazioni delle istituzioni regionali di controllo, con una impropria e pericolosissima commistione fra controllo e giurisdizione, dagli esiti estremamente incerti e imprevedibili. Come dire, si dà la possibilità all'amministrazione di non adeguarsi ai rilievi formulati dalla Corte, ma di proporre una specie di opposizione, di ricorso. Sì. Ma infatti poi, tra le altre cose, ripeto, cercheremo la voce del governo per capirne di più, però c'è qualcosa che mi sfugge in questo quadro, perché già è difficile far pagare coloro i quali sono condannati dalla Corte dei Conti. Se si crea anche un appello, per carità, sarà legittimo, sarà tutto quello che vogliamo, però si allungano i tempi e probabilmente chi la fa già franca così ha più possibilità di farla franca, almeno questo è il mio giudizio, non so se lo condivide. Ma sicuramente, perché questa misura va sicuramente in controtendenza rispetto alle scelte che in un momento di così difficile congiuntura economica che il paese sta vivendo e di crisi finanziaria in generale, lo vediamo, ecco, lo leggiamo tutti i giorni dai giornali, sicuramente non si dovrebbe, come dire, pensare a misure che garantiscano maggiormente il buon governo sotto il profilo di una corretta gestione delle pubbliche risorse. Ecco, allora io quando sento dire di commistione tra i poteri, no? Potere legislativo, potere giudiziario, potere esecutivo, mi sento male, perché francamente queste cose mi danno molto molto fastidio. Allora le voglio chiedere questo, Miele. Detto ai nostri radioascoltatori che lo stipendio non me lo paga la Corte dei Conti, ma ringraziando Dio me lo paga il gruppo Sole 24 Ore, che mi dà una, come dire, libertà di espressione straordinaria, di informazione straordinaria, io però vorrei riflettere con lei su quest'ultima norma urticante, cioè che io considero tale. Vale a dire, il governo dice la Corte dei Conti c'ha troppi poteri, o meglio, il presidente della Corte dei Conti c'ha troppi poteri, lui nomina, lui revoca i magistrati contabili, senza rendere conto a nessuno. Ora le chiedo, Miele, ma a chi deve rendere conto il presidente della Corte dei Conti? No, non si tratta di rendere conto, il problema non riguarda tanti i poteri del Presidente o i poteri della Corte in generale, qui si tratta di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura contabile, e questo mi preme richiamare, non tanto per salvaguardare un privilegio dei magistrati o della stessa Corte, ma soprattutto perché ci sta a cuore garantire come dire, un valore costituzionale che, come dicevo prima, è la sana e corretta gestione delle pubbliche risorse, quindi nell'interesse non già dei magistrati ma nell'interesse dei cittadini, perché io credo che tutti i cittadini abbiano a cuore a che le risorse pubbliche che vengono sostanzialmente alimentate, vengono reperite attraverso gli oneri tributari e il peso tributario, attraverso le tasse che noi paghiamo, certo. Sicuramente tutti i cittadini hanno interesse a che questi soldi vengano ben spesi e ben amministrati. Ecco, un'ultima domanda, Miele, proprio per confermare ai nostri radioascoltatori la straordinaria grado di libertà di informazione che assicura questo gruppo e che assicura questa informazione, non lo dico per piaggeria, perché se venisse meno me ne andrei subito, dico ai nostri radioascoltatori che questa idea di ridurre le competenze dei magistrati non è che ce l'ha soltanto il centrodestra, ma ce l'aveva anche il centrosinistra, proprio perché chi ci segue sa che a noi dei colori politici non interessa assolutamente nulla. Esisteva un testo, o comunque un progetto anche molto più forte forse per alcuni aspetti in precedenza del precedente governo, o mi sbaglio, Miele? No, è sicuramente così, perché, ecco, lo posso dire, qui il problema, quando si tratta di limitare i poteri diciamo degli organi di controllo, sia sotto il profilo più propriamente del controllo che sotto il profilo della giurisdizione, quale appunto la Corte dei Conti, sono tutti d'accordo, perché chiaramente poi la funzione sia di controllo che giurisdizionale della Corte si svolge nei confronti delle amministrazioni pubbliche, quindi nei confronti soprattutto di amministratori pubblici pubblici che sono sia di una parte che dell'altra parte politica, e quindi su questo punto si trovano tutti d'accordo. Ecco perché io ci tengo a che ai cittadini arrivi forte, diciamo, la nostra voce, perché vogliamo tutelare gli interessi dei cittadini. Assolutamente, la voce è arrivata. Non a caso, ecco, io ci tengo anche a precisare questo, che proprio per questo motivo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, di cui io appunto sono vicepresidente, ha indetto una forma di interruzione protesta, delle attività, diciamo. No, non interruzione dell'attività, perché questo ci sembrava, come dire, lesivo anche dell'interesse al buon funzionamento della giustizia. Noi come forma di protesta abbiamo invece accettato e voluto il versamento di una giornata di stipendio a una o più associazioni umanitarie. Questo accadrà il 16 dicembre. Leggeremo invece un comunicato, ci limiteremo a leggere un comunicato. Benissimo. Quindi questa è la nostra forma, affinché arrivi forte all'opinione pubblica, diciamo, questo messaggio, ripeto, per difendere non già privilegi dei magistrati o della stessa Corte dei Conti, ma per tutelare un interesse previsto costituzionalmente, peraltro, benissimo, benissimo, alla corretta gestione delle pubbliche risorse. Bene, Miele, la vostra voce quindi è arrivata, noi cercheremo anche la voce di Carlo Vizzini. Nel frattempo ringrazio regia Giorgio Mattei, ringrazio Laura Faggin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.